khayratun hisan. E fanciulle pie e belle. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. E fanciulle dei grandi occhi neri, ritirate nelle loro tende. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ. Che nessun uomo o demone mai han toccato. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. Saranno appoggiati su verdi cuscini e meravigliosi tappeti. Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Sia benedetto il nome del tuo Signore, colmo di maestà e di magnificenza.